F. Fonetica. Ascolta e ripeti. S. Secondo me. Sono. Vicinissima. Specialità. Universitaria. Se. Industriale. Specialità. Scrive. Feste. Preferiscono. Cosa. Famosa. Esempio. Chiesa. Museo. Mese.